Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, con voi appunto Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Molto ricca la giornata, non solo, non tanto per le borse o per i dati macroeconomici. Abbiamo avuto un leggero peggioramento ulteriore del nostro PIL nel 2009, l'ultima revisione meno 5,1%. A questo punto, dice anche il Centro Studi Confindustria, difficilmente quest'anno si andrà oltre l'1%. Ma ne parleremo anche con l'OCSE, perché l'OCSE oggi ha diffuso dati, e ne parleremo più avanti con il capo economista dell'OCSE. Ha parlato di una ripresa debole e instabile, servono le riforme. L'Italia è tra i paesi più colpiti dalla crisi, meno 4%. Questo, diciamo, è il tema di maggiore cronaca, assieme chiaramente anche a una notizia che ci ha lasciato perplessi, e la chiarisco subito, non tanto perché riguardi la Fiat, ma perché è l'ennesimo caso di un richiamo di autovetture. Questa volta è toccata la Fiat in Brasile, 60.000 stilo ritirato, una multa che il Ministero della Giustizia ha comminato la Fiat per 1.200.000 euro per un problema alle macchine. Allora, siccome la Fiat arriva dopo il caso clamoroso di Toyota, che ha ritirato milioni di vetture in giro per il mondo, poi ci fu Nissan, Volkswagen, insomma, praticamente nel caso Fiat vi sarebbe un difetto ai mozzi delle ruote posteriori, ci siamo chiesti se sia solo una coincidenza che continuino ad arrivare notizie di cronaca di grandi produttori di auto, perché i nomi che abbiamo fatto sono il numero uno, l'ex numero uno al mondo, poi la Nissan, appunto la Volkswagen, la Fiat, che hanno problemi evidentemente ingegneristici, chiamiamoli così, quantomeno tecnici. Coincidenza oppure c'è qualcosa che forse non sta funzionando nell'approvvigionamento, nei fornitori, nei subfornitori in alcuni casi? Ne parleremo nella seconda ora del programma. Partiremo invece con un tema che noi abbiamo definito data Fazzi, se qualcuno ricorda quel mitico personaggio di Aldi Giovanni Giacomo, che aveva una particolarità, riusciva a farsi del male da solo, mettiamola così. Perché? Perché oggi al Senato è passata, anche se leggermente rivista, la normativa sul Made in Italy. Adesso andrà alla Camera, è stata modificata una cosa, cioè sono state elevate le sanzioni ai doganieri. Perché, diciamo Tafazzi, ma ne parleremo subito in apertura, perché riusciremo probabilmente a farci del gran male con questa normativa, imponendo a tutti quelli che non hanno almeno due fasi su quattro in Italia nel tessile, arredamento, articoli in pelle e calzature, non potranno scrivere Made in Italy. E voi capite bene che un conto è tutelare la tracciabilità nel settore agroalimentare o in alcune cose, e un conto è se un divaniere ha, diciamo, tre fasi su quattro, magari la progettazione ce l'ha qui, oppure la parte finale, e alcune componenti le prende da fuori in alcune fasi, non poter scrivere più Made in Italy significa avere un danno economico sull'export. Dovrà scrivere da dove è arrivato il prodotto, Made in China parzialmente. Ma la cosa interessante, è per questo che usiamo l'esempio di Tafazzi, è che siamo solo noi a farlo. Cioè, gli altri paesi europei non ci pensano minimamente. La Svezia a scrivere da dove arrivano, non so, i tessuti di H&M, che sono praticamente tutti cinesi o comunque dell'est Europa. Noi, che con Made in Italy abbiamo costruito la forza del nostro export, a partire proprio dalla moda, ed è inutile nasconderci dietro un dito, sappiamo che molte volte il tessuto e alcune lavorazioni non vengono fatte in Italia. In Italia nella moda viene fatto il design, la parte finale, la rifinitura finale, il confezionamento, con sanzioni pesantissime anche per chi dovesse, non essendo Made in Italy, confezionare, e quindi la veste grafica, chiamiamola così, il prodotto semplicemente dando l'idea che possa essere italiano, con un nome italiano, con la bandiera italiana, quindi la creazione di una fallace, un'immagine fallace. A noi sembra veramente un gran boomerang voluto dai piccolissimi produttori del tessile, sulla falsariga di quello che hanno fatto nel settore agroalimentare, dove lì però c'è un altro problema, lì c'è un problema anche di salute, di sanità del prodotto agroalimentare. La tracciabilità nasce con lo scandalo della mucca pazza. Nel tessile, arredamento, calzaturiero e appunto anche gli articoli in pelle, non c'è un problema di sanità o di salute, di tutela della salute, eppure siamo riusciti a fare una legge che comunque porterà molte imprese italiane a non poter più dire che, sono made, che il prodotto è made in Italy. Oggettivamente non se ne sentiva bisogno in un momento di grande preoccupazione sulle nostre esportazioni. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve partendo dalla borsa. Borsa positiva più 1,2% per quello che riguarda Milano, più 0,90 Parigi e Francoforte, più 0,70 Londra, più 0,2% invece l'America in questo momento. Euro a quota 1,3667, i titoli, il peggiore Mondadori, meno 1,1 come Atlantia, Terna perde lo 0,3 come Campari e Geox. Chi guadagna di più? Pirelli più 3,6 come Bulgari, il 3,5 lo guadagna Buzzi Unicem, il 3% Saipem, il 2,80 l'Automatica e anche Fiat. Impregilo più 2,6, Ubibanca più 2,4, Generali più 2% come la Popolare di Milano, l'1,90 lo guadagna il Banco Popolare, l'1,80 Mediolanum, l'1,70 Unicredit con Mediobanca, 1,5% è il rialzo di Telecom e di Italcementi, l'1,4 quello del Monte dei Paschi e di Exor, l'1,3 quello di Autogrill, CIR e Ansaldo STS, l'1,1 lo guadagnano infine ST Microelectronics, Fondiaria Sai, Eni e Finmeccanica. Altre notizie di questa giornata, dicevamo del PIL, ne parleremo fra poco, l'Italia lo ha rivisto ulteriormente al ribasso, meno 5,1 è il dato finale, la prima stima era di un meno 4,9 e questo è il dato finale del 2009, la ripresa è debole e instabile, appunto lo dice l'Ocse, l'Italia tra i più colpiti della crisi, meno 4% una stima complessiva del lungo periodo, 4 punti percentuali meno di PIL per l'Italia contro una media OCSE del 3%. Peggio di noi comunque la Spagna, meno 10, la Polonia meno 4,4. E poi notizie non bellissime, adesso ne parleremo, la Cina aumenta l'export, non è bella per le nostre esportazioni, aumenta l'export più 45% a febbraio le esportazioni cinesi, terzo mese consecutivo. Bene anche, questa è una buona notizia per noi, le importazioni cinesi più 44%, crolla invece a sorpresa l'export tedesco, meno 6% a gennaio su dicembre del 2009, con le importazioni che invece crescono in Germania del 6%, e va male anche la produzione manifatturiera della Gran Bretagna, per la prima volta in 5 mesi di nuovo un segno meno 0,9% a gennaio. Ancora un dato sul petrolio, adesso vedo già molti messaggi sui Made in Italy, vi arriviamo tra un secondo. Il petrolio in rialzo dopo un dato sulle scorte americane che segnalava appunto una diminuzione, a 81,87 dollari al barile, e l'OPEC ha rivisto al rialzo le stime sulla domanda globale di petrolio di greggio nel 2010 a 85,2 milioni di barili al giorno, prevede di dover aumentare la produzione di circa 190.000 barili al giorno, in più al giorno, cioè 28.940.000. Allora, nel quarto trimestre il PIL italiano è calato più della media europea, di questi dati però se permettete parleremo più avanti perché abbiamo appunto un approfondimento dedicato, vorrei partire subito con il tema del Made in Italy, dando però due notizie giudiziarie. Perquisizione oggi di, lo riportava anche il nostro GR, di oltre 300 militari della Guardia di Finanza in 53 società e 16 studi di professionisti in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania per l'inchiesta Monte City. E ancora oltre 100 milioni di euro di evasione contestata. Sarebbe fatture gonfiate per le bonifiche dell'area Monte City Santa Giulia, c'è un imprenditore, anzi più di uno, ancora in carcere, mentre per l'inchiesta Mediolanum è arrivata una conferma di quanto noi anticipavamo come Radio 24 in esclusiva ancora un mese fa. C'è anche un manager di Mediolanum tra gli indagati nell'inchiesta sulle presunte evasioni fiscali, quella coordinata dal PM Roberto Pellicano. Si tratterebbe di Oscar Di Montigny, responsabile dello sviluppo di rete di Banca Mediolanum e amministratore legato di Mediolanum Corporate University, legato alla famiglia del fondatore di Mediolanum, Ennio Doris. Anche di questo rimando ai nostri GR. I promotori di Mediolanum sono accusati, chiaramente quelli sotto inchiesta, di frode fiscale, mentre al loro consulente Marco Baroni è stato contestato il riciclaggio. A suo tempo Banca Mediolanum aveva dichiarato la sua assoluta estraneità. Si complica però la vicenda, visto che c'è anche un manager con il ruolo che ha di Montigny proprio in Banca Mediolanum. Dicevo, Made in Italy, da sempre sosteniamo che bisogna tutelare Made in Italy, che è sbagliato avere falsificazioni, le falsificazioni ci costano tantissimo, ma attenzione, un conto è il falso Made in Italy che pesa in una maniera incredibile, praticamente si calcola che solo in Cina vi sia un falso Made in Italy di 100 miliardi, in America di 50 miliardi sul settore agroalimentare. Abbiamo una grossa quota di contraffazione, 5 miliardi e 300 milioni di falsi vengono prodotti in Italia, scusatemi, e questo è il falso Made in Italy. Che va combattuto, contestato, la falsa Made in Italy nell'agroalimentare, soprattutto il salame che sembra italiano ma è fatto in Canada, il prosciutto che è fatto in America, appunto i 50 miliardi di simil Made in Italy prodotto negli Stati Uniti e tutta la battaglia che fece la Ferrero anche in Cina, in Ucraina, per contestare chi copiava il Ferrero Rocher Raffaello. E questa è una cosa. Altra cosa è decidere quello che può essere chiamato Made in Italy pur essendo prodotto in parte in Italia, che non c'entra niente con il finto Made in Italy che viene prodotto all'estero, i finti appunto prodotti italiani. Su questo, ripeto, quello che è passato al Senato e tornerà alla Camera, ma tenderà a diventare legge con operatività dal 1 ottobre, a noi ricorda veramente un personaggio. The king of the Anchorman, sì? Mr. Tafazzi! Ci voleva tanto! Mister Tafazzi, il paese che decide di inasprire contro tutti gli altri paesi europei le regole per quello che deve essere chiamato Made in Italy, facendo un danno a se stesso. E citavamo i dati di oggi sulle esportazioni, le difficoltà anche italiane nell'export, non sono dati nuovi, ma insomma nel 2009 abbiamo fatto il dato peggiore dal 1970, meno 20% nelle esportazioni italiane nel 2009, meno 20,7%. E i mobili hanno fatto meno 21%, cito i settori coinvolti, abbigliamento e calzature meno 17%. E ciò nonostante, cosa è successo oggi al Senato? Ha modificato solo dal fatto che potessero essere sanzionati anche i doganieri, ma ha deciso e ha confermato l'approccio, e cioè, attenzione, tornerà adesso alla Camera il provvedimento per i settori scarpe, abbigliamento, articoli in pelle e arredamento, quindi anche il mobilio. Potrà essere Made in Italy, si potrà usare il termine Made in Italy solo se le fasi di lavorazione 2 su 4 sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità. Se quelli che non potranno essere chiamati Made in Italy, perché magari ne hanno 3 su 4, dovranno avere indicazione del paese di provenienza, per cui un mobile italiano potrebbe chiamarsi Made in China perché magari il design e il tessuto è italiano, però la gomma piuma da cui l'hai comprato, le molle e altre componenti sono di altri paesi. Se vengono dalla Cina si chiamerà Made in China. Etichetta obbligatoria, le sanzioni durissime perché si va a sanzionare anche il confezionamento fallace, per cui se tu fai finta di essere italiano anche se scrivi Made in China ma metti la bandiera italiana, insomma un grandissimo casino, se mi passate il termine. E ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento da un lato il presidente degli industriali del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Caligaris. Buonasera. Buonasera direttore, piacere. Non sono direttore, ma insomma lo prendo come un auspicio. Comunque, presidente del gruppo Caligaris, produce mobili, sedie, importanti di livello, come tutto il distretto poi di Manzano in Friuli, vocatissimo all'export. Grazie anche, perché qui abbiamo bisogno dell'avvocato, al professor Massimo Cartella, che è avvocato ed è ordinario di diritto commerciale all'Università Bicocca di Milano. Buonasera anche lei, professore. Buonasera, dottore, sono contento di essere con voi. Bene, adesso fate salve le buone intenzioni, vediamo che cosa è successo. A parte la modifica sui doganieri, Il testo della Camera, infatti il testo della Camera prevedeva anche la reclusione per i doganieri per omesso controllo, norme durissime. La merce è sempre oggetto di sequestro e confisca. Se poi uno continua a scrivere Made in Italy, ma due fasi su quattro non sono italiane, addirittura c'è la reclusione da 1 a 3 anni. Se abusate del Made in Italy sono imprese, la sanzione va da 30.000 a 70.000 euro, la confisca delle merci dal 1° ottobre entra in vigore per i settori che ho detto, ma che sono settori fondamentali nelle nostre esportazioni. Allora, vorrei un primo commento su questa norma, diciamo, col presidente degli industriali friulani. Perché non vi piace? Allora, innanzitutto io faccio questa considerazione. Innanzitutto le aziende italiane in questo momento qui convivono ovviamente in una sfida globale, sempre più internazionalizzata, dove ovviamente la competizione è sempre più ardua. Vuoi per un euro sempre fortissimo, vuoi perché diciamo nel mondo ci sono nati veramente nuovi competitori, di conseguenza competizione globale. Quindi le aziende italiane non possono veramente far sì di star ferme sotto e aspettare ovviamente che la competizione sottragga mercato, e devono fare anche loro, probabilmente anche le aziende italiane, quindi devono approcciare a far fare componenti e quant'altro anche su altri mercati. Di conseguenza produzione sempre più orizzontale. Quello che noi come imprenditori, almeno diciamo anche dal mio punto di vista, io vedo che la certificazione, praticamente mettendo solamente un'etichetta Made in Italy, non per far sì praticamente che il prodotto italiano diventi un prodotto di qualità. Io credo che il prodotto di qualità è un prodotto quando c'è un brand, c'è una certificazione veramente aziendale, quindi vediamo che un'azienda produce praticamente con un buon design, con una buona qualità del prodotto, con un servizio, sì, con attenzione all'ambiente e con tutto, con attenzione alla forza lavoro. Allora, adesso io vorrei fare, la interrompo perché vedo già moltissimi messaggi e chiarisco il tema. Nessuno sta dicendo che, allora, intanto è diverso mangiare il finto parmigiano, la finta mortadella, quelli sono falsi, è un'altra cosa. I falsi vengono sanciti, se uno... e ci sono cause internazionali, la Ferrero l'ha fatta per il Rocher in Cina, ci sono casi e cause in corso di produttori parmigiano di prosciutto, quelli sono falsi, sono produttori canadesi, cinesi, che copiano i nostri prodotti, li chiamano. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, per favore, non fate confusione, è inutile che mi scrivete se lo mangi lei il finto parmigiano fatto in Canada, su quello abbiamo fatto puntate e puntate. Qui si sta dicendo, e vi dico il paradosso, e poi vorrei sentire anche l'avvocato, che se un produttore, se un cinese che lavora a Prato, fa tutte le fasi della produzione a Prato, scrive Made in Italy, se un italiano prende alcune componenti, prendiamo nel caso di Carligari, la gomma piuma e alcune, non so, il legno, poi lo lavora qui, però 3 fasi su 4 vengono da fuori, lei non può scrivere Made in Italy, ho capito bene Carligari? Sicuro. E che cosa scriverà a quel punto? Made in... dov'è che lo prende il legno? Infatti appunto se saremo obbligati a scrivere allora made in, non so, in Croazia o made in Bosnia, è logico ovviamente che andremo probabilmente a far sì che i nostri prodotti non siano più apprezzati nei mercati del mondo, perché diciamo non vedono in noi praticamente aziende che danno praticamente una garanzia sul prodotto, mentre noi invece viceversa abbiamo una garanzia del prodotto, quindi siamo noi invece come azienda, pur magari facendo fare delle parti anche in altri mercati, possiamo garantire invece quello che il consumatore finale ha bisogno, e cioè il consumatore finale ha bisogno praticamente di un prodotto appunto che dove le normative siano appunto certificate, dove il prodotto appunto abbia la qualità del design e di tutto quello che è praticamente... No, ma guardi, è chiaro, andiamo un po' più rapidi perché abbiamo tempi molto stretti, se no non ci stiamo dentro con i tempi. È chiaro quello che lei dice, devo però rispondere sempre agli ascoltatori, perché l'altra obiezione, e ripeto, non stiamo parlando di falsi, ma stiamo parlando di chi potrà fregiarsi da ottobre del Made in Italy. Altra questione, molti di voi scrivono, vabbè, è una legge giusta perché in questo modo chi va a produrre all'estero e poi prende le cose prodotte all'estero, le mette in Italia, magari le assembla in Italia e mette Made in Italy, impara, la traduco. Ed è, devo dire, un tema anche molto caldeggiato da un partito di governo, la Lega, ne abbiamo parlato molte volte anche con il ministro Zai. Attenzione, perché non si va contro la storia. Adesso io vorrei sentire ancora Caligaris come presidente degli industriali, poi passiamo all'avvocato. Perché io dico, da quello che noi abbiamo capito, che tu vai all'estero a produrre perché all'estero costa di meno. Non è che improvvisamente abbassiamo le paghe dei lavoratori italiani per poter mettere Made in Italy, né possiamo produrre noi la materia prima che non abbiamo. Il legno in Italia, Caligaris, non c'è, quindi il legno voi lo prenderete sempre dall'estero. Sicuro. Allora, mi può dire se in questo modo, secondo lei, i produttori italiani saranno più stimolati a mantenere le produzioni in Italia, anche quelle che sono economiche? Più stimolati perché li eliminerà il mercato, è il mercato che decide praticamente se deve comprare da un produttore italiano o da un altro produttore. Il mercato lo decide in funzione del prezzo, lo decide in funzione del servizio, della qualità del prodotto che gli viene dato. No? Quindi non è l'etichetta di cosiddetta Made in Italy che certificherà praticamente o darà le garanzie al consumatore. Il consumatore deciderà appunto in funzione di quelle 3 o 4 o 5 variabili che ho detto prima. No? Quindi... Io dico, ma anche l'imprenditore, no, perché qua c'è un grandissimo luogo comune, che uno va a produrre, internazionalizzare negli altri mercati perché così ci lucra. Attenzione, se tu concorri con la grande distribuzione, citavo il caso H&M o Zara, andiamo a vedere dove producono loro, ma loro mica scriveranno Made in Romania o Made in China. Allora, o la legge europea, allora si potrebbe già ragionare sul Made in Europe, cos'è Made in Europe o no, ma se ce la facciamo solo noi, secondo me è un'operazione di tafazzismo. E ripeto, uno va a produrre alcune componenti o va a comprare le materie prime là dove ha maggiore vantaggio economico, non è che lo va a fare perché c'è la bandiera. Il Made in Italy spesso è un'operazione anche di marketing in cui si premia il design italiano, il confezionamento italiano, la capacità anche di cogliere i mutamenti di gusto. Ma voglio dire, e ha ragione chi dice, vabbè, allora la Fiat 500 prodotta in Polonia, Caligaris dovrebbe chiamarsi Made in Polonia. Io praticamente sono di questo parere, che noi oggi veramente come azienda dobbiamo essere messi nella condizione di poter operare praticamente in Italia, quindi con un costo del lavoro adeguato e con tutte le infrastrutture, quello che serve. Dopo appunto, come dico, se le aziende sono competitive possono vendere nel mondo. Se oggi praticamente le aziende facciamo sì che debbano ottemperare veramente a mettere un'etichetta solamente Made in Italy e non possono veramente far sì che componenti o parti praticamente non possono essere inserite nel ciclo produttivo, diventerà senz'altro un problema per poter vendere il prodotto nel mondo. L'esempio è anche, se io prendo un'automobile, ad esempio facciamo una Mercedes e credo veramente in questa automobile, senz'altro avrò le batterie fatte in un paese, avrò i pneumatici in un altro, i tessuti ancora in un altro paese, quindi io credo veramente in quel momento al marchio, alla Mercedes, quindi che mi deve dare le garanzie e tutto quello che ne compete dopo aver comprato quell'automobile. Ma tra l'altro, voglio dire, adesso se vogliamo ragionare seriamente, nessuno avrebbe nulla da obiettare se la Mercedes scrivesse o che la Mercedes sia Made in Germany, voglio dire, più tedesca di così, anche se sappiamo che i freni magari li prende la Brembo, che la pelle la prende da altri produttori, però è Made in Germany perché viene controllata, disegnata, studiata in Germania con lo spirito tedesco. Comunque, visto che vedo molte obiezioni, perché insomma piace il tema di pancia, se produci all'estero lo devi scrivere, se no produci tutto qua. Voglio vedere con che margini, con che salari si potevi stare sul mercato, ma vabbè. Io chiedo all'avvocato, perché a questo punto m'appello all'avvocato Cartella. Questo vale per le fasi di produzione o anche per le componenti? Ma direi che bisogna interpretare la legge. Adesso qui stiamo parlando del decreto, del disegno di legge che è in fase di discussione. Questo disegno di legge... Torna alla Camera, a questo punto in terza lettura, per cui tra un po' diventa legge. Ma voglio dire, questo qui contiene alcune indicazioni che non sono ancora certe, nel senso che esso prevede specificatamente che si possano utilizzare materie prime di importazione, ad esempio per il pellame dice che si può utilizzare pellame grezzo di importazione e quindi sembrerebbe non richiedere che le materie prime siano nazionali. Siccome questo disegno di legge si inquadra nell'ambito della disciplina più generale, che norma tra l'altro contro il Made in Italy. Io ritengo che non si possa pensare che questa normativa, che si inquadra in una normativa più generale, non abbia un valore interpretativo anche della normativa più generale, ancorché questa nulla dica di speciale. Voglio però dire che l'articolo 16, che è stato aggiunto dal decreto legislativo della fine del 2009, quando parla del full Made in Italy, il 100% Made in Italy, ancora al territorio italiano diverse cose: l'ideazione, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento, ma non ancora al territorio italiano in modo specifico la materia prima. A mio modo di vedere, quando parla di lavorazione intende la fase operativa, e cioè la produzione attraverso i macchinari, la forza operaia e così via, e non anche la materia prima. Aggiungerei una cosa, che poiché l'Italia è un paese dove per definizione le materie prime non ci sono o comunque sono deficitarie, mi sembrerebbe strano che il legislatore abbia possa pensare di fare una normativa che impedirà, che potrebbe al limite impedire e paradossalmente addirittura l'attività economica. Non so, pensiamo a qualunque attività che si basi sull'utilizzazione del petrolio e della benzina, la chimica per esempio, non potrebbero esserci più prodotti plastici made in Italy perché il petrolio viene dall'estero. No, ma è chiaro, però stiamo parlando sul pezzo, perché stiamo parlando in questo caso di scarpe, vestiti, articoli in pelle. Se parliamo di scarpe e di vestiti, in questo caso il disegno è al momento è specifico, perché si dice che si possono utilizzare anche materie prime che sono di importazione. Allora, adesso io, dopo le informazioni meteo e la pubblicità, però vorrei capire una cosa con il presidente Calligaris, sia come presidente degli industriali di una regione vocata all'export come il Friuli, che come imprenditore della Calligaris. Scrivono alcuni ascoltatori: ma se delle quattro fasi, nel caso dei tessuti per esempio sono la filatura, la tessitura, la nobilitazione e il confezionamento, se di queste quattro fasi, due per cui prendiamo design, che penso che rientri, e assemblaggio, sono in Italia, qual è il vostro problema? Cioè, voglio dire, se vi riconoscono che bastano due fasi su quattro e si può fare il design e l'assemblaggio in Italia e la produzione e non so cos'altro a questo punto fuori, tutto sommato non dovreste avere un grosso... Cioè, perché siete così preoccupati? A chi mi chiede invece perché nasce questa legge, nasce dalle pressioni dei piccoli, soprattutto i piccolissimi produttori del tessile, i laboratori, che non riuscendo più a reggere la concorrenza cinese, hanno detto: no, almeno riconosceteci che produciamo tutto in Italia, che tutto il lavoro lo facciamo in Italia. Secondo me, quando tu sei in certi segmenti bassi, la concorrenza cinese non la reggi lo stesso, non la reggi e basta. Continuiamo a spiegarlo, ma non serve. Devi andare a produrre altre cose, devi smetterla di fare il cinese d'Europa. Comunque, dopo le informazioni per chi è in viaggio, 349-238-6666 per i vostri sms, dopo il meteo, scusatemi, la risposta del presidente Calligaris. Allora, 17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non vi dico il tono dei messaggi, la maggior parte dicono questa volta sbagliate, la legge sul Made in Italy è giusta, se uno ha su quattro fasi più di due le ha fuori non potrà scrivere Made in Italy. Due obiezioni: la prima, c'era bisogno in questo periodo con l'export che fa meno 22%, era l'urgenza del paese? Secondo me, a nostro avviso, no. Seconda obiezione, a parte i messaggi, uno dei più leggeri dice: se ti buttano fuori dalla radio magari cominciamo a risparmiare il tuo salario, tanto sei un leccapiedi, non un giornalista, pago anch'io il tuo giornale. Immagino che l'ultima frase voglia dire che vai in edicola e lo paga e non lo ruba, o non immagino che sia una minaccia perché è un editore del giornale. Comunque, presidente Calligaris, allora, l'obiezione che fanno gli altri, ma insomma, se vi lasciano due fasi su quattro non vi basta? Cioè, qual è il timore? Io penso che il legislatore, se vuole risolvere il problema dell'export italiano, delle aziende e del lavoro italiano, si deve appunto misurare col bilancino del farmacista. Io credo che le aziende italiane hanno bisogno non di un'etichetta di Made in Italy, ma, come dicevo prima, di una certificazione aziendale, perché io credo che se a un imprenditore che importa una materia prima, l'importa in Italia e dopo la lavora male, non è perché la differenza la fa praticamente la qualità aziendale, non la fa praticamente il lavoro che viene fatto all'interno dell'azienda o la materia prima che viene importata all'interno. all'interno dell'azienda, perché se un'azienda importa materia cattiva, materia prima cattiva, non è uguale praticamente alla materia buona che mentre un'altra azienda può adoperare. Quindi ognuno può, tutte e due le aziende possono mettere praticamente Made in Italy, ma la differenza la fa appunto chi ha adoperato materia di qualità buona e chi ha adoperato praticamente certificazione ambientale, certificazione della manodopera, normative per l'esazione del prodotto, standard delle normative e soprattutto servizio verso il mercato. Questo è quello che, di cui ha bisogno, come dicevo prima, il consumatore finale. Ecco, ci sono degli aspetti di questa legge che invece a mio avviso sono assolutamente convincenti: la certificazione di igiene e di sicurezza sui prodotti, l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale, ma sono già direttive europee queste, non è che le abbiamo inventate oggi. Sono queste appunto che devono far sì che faccia una differenza appunto verso il mercato, perché l'azienda italiana che poi può mettere appunto Made in Italy può sicuramente anche un'azienda di un imprenditore cinese, perché ovviamente ha un'azienda giuridica italiana, produce magari con normative, cioè con modi di lavorare che non corrispondono alle normative, e può comunque, diciamo, mettere Made in Italy. Allora praticamente noi ci facciamo concorrenza da soli con aziende praticamente che non rispettano praticamente le regole. Allora, intanto io proporrei anche una cosa, una scommessa, visto che molti dicono: ma in questo modo tuteleremo i piccoli, piccolissimi produttori delle scarpe. Allora, se tu sei un produttore di scarpe di nicchia e di alta gamma, te ne freghi anche del Made in, perché se ti chiami Ferragamo è anche più grande, ma insomma ti puoi chiamare, ma non voglio fare pubblicità, insomma, se sei un grandissimo produttore di scarpe che costano tantissimo, tu le scarpe le comprano per il marchio, non certo per il Made in. Se sei un piccolo che produce maglioni, calze, t-shirt e speri in questo modo di non entrare in concorrenza con i cinesi, facciamo una scommessa, perché tanto con i prezzi che hanno i cinesi o praticamente, non lo so, produci in nero o non ci stai dentro. Cioè quella roba lì non riusciamo più a farla, la sta facendo la Cina per tutto il mondo, io non so come spiegare, è anni che ne parliamo di questo tema, ma c'è ancora chi si ostina a dire no, noi dobbiamo continuare a produrre produzioni di massa a basso prezzo e bassa qualità. E va bene, andiamo contro la storia, i processi si dominano, non si rifiutano, a nostro avviso. Avvocato, come se ne esce? Poi vorrei chiedere anche una cosa ancora a Calligaris, perché molti contestano il fatto che voi producete parti all'estero, però poi i prezzi sono sempre europei. Non si vede mai il vantaggio nell'acquisire o nel far produrre parti diciamo all'estero, dove la manodopera costa meno. Però, avvocato, come se ne esce? Perché insomma, qui me lo spieghi in maniera molto semplice, senza ricorrere, diciamo, a un linguaggio troppo giuridico. Molto semplice, se ne esce fermandosi nella turbonormazione e cominciando a pensare la turbonormazione, mi piace, a pensare in modo tranquillo alle varie problematiche, come, che cos'è il Made in Italy e come lo si protegge. Ha ragione il presidente Calligari a dire che qua non c'è una protezione della qualità. Due soggetti che fanno con la medesima metodologia lo stesso prodotto, uno utilizza della merce buona, delle materie prime buone, e l'altro utilizza delle materie prime pessime, entrambi purché rispettino i criteri generali di questa legge hanno il nome di Made in Italy. Aggiungo di più che qui questa normativa, che adesso diventerà, come dice lei, legge, non protegge il Made in Italy, perché se il Made in Italy è qualità, non c'è la certificazione di qualità sulla base di questa legge. Se il Made in Italy è stile, inventiva e così via, non c'è neanche questo, perché questa legge non prevede nulla per quanto riguarda la fase ideativa, e cioè il disegno, la progettazione e così via. Questo è un paradosso bellissimo. Questo è un paradosso bellissimo. La lavorazione materiale. Si faccia interrompere, avvocato. È un paradosso bellissimo, perché se un produttore di tessuti fa tre fasi, ma non il design, magari sta copiando un modello cinese, che ne so, una mutanda cinese o una mutanda un abito di Zara, però quindi di italiano come Made in Italy, di design, di studio, di know-how, di materiali, di ricerca, quello che ci ha reso famoso il mondo, non c'è niente, però lui può mettere Made in Italy. Se un altro ha un mobile, lo disegna, segue il gusto, fa lavorare gli architetti, design, va in giro per il mondo a scoprire le mode, però l'assemblaggio lo fa in Croazia e le componenti vengono da fuori, lui non può scrivere Made in Italy. Ho capito bene, avvocato? Ha capito bene. Anche se ha sfociato fuori da questo disegno e è andato a parare anche nell'altra legge sul Made in Italy. Ma io vorrei essere ancora più radicale nell'esempio. Prendiamo questo disegno di legge e prendiamo il settore calzaturiero, dove si dice che per che sia Made in Italy la scarpa, le lavorazioni rilevanti sono la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione, pur utilizzando pellame grezzo di importazione. questione. Allora, facciamo questo esempio. Il disegno viene dall'India, il pellame dalla Manciuria, l'atmaia è lavorata in Cina e lì pure viene assemblata la calzatura. Però in Italia si fanno la concia e la rifinizione. Questo è made in Italy, bellissimo, secondo questo disegno. Bellissimo. Per cui, ma se un cinese... Mi scusi, avvocato, perché poi mi diverto. Ma se un cinese decidesse di, appunto, di fare il disegno in Cina, però fa due fasi, la concia, mi diceva, è... Potremmo fare le due meno rilevanti, secondo me, proprio dal punto di vista del made in Italy, sono la concia e la rifinizione. Ecco, se lui facesse la concia e la rifinizione nel Vicentino, sì, potrebbe scrivere, facendo tutto il resto dalla Cina... Made in Italy, capito bene? Perché il precedente comma 4 della legge dice l'impiego della denominazione Made in Italy è permesso esclusivamente per i prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano, e poi precisa, dice in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione che poi vengono indicate sono fatte in Italia. È bellissima questa, per cui, perché io se fossi un cinese farei così, andrei a fare tutte le fasi più importanti in Cina, poi verrei qua perché le conce di funzionano bene nel Vicentino, farei conciare e mettere quattro cavolate lì e poi ci metterei Made in Italy e lo esporterei di nuovo in Cina come Made in Italy. Pensate che bellissimo capolavoro rischia di creare questa legge. Comunque, traffico di nuovo, poi arriviamo alla borsa, non vi preoccupate. E un'ultima domanda per Caligaris, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, adesso arriviamo anche alla borsa. Ieri abbiamo fatto tutta una puntata sui mercati finanziari a un anno di distanza dai minimi toccati il 9 marzo, più 70% da un anno fa, un po' di pazienza, comunque più 1,3% Milano, miglior titolo Pirelli più 4,15%, Bulgari più 3,70%, Buzzi Unice più 3,40% e Fiat più 3%. Allora, intanto vedo una valanga di messaggi per l'avvocato, insomma... lei ci conferma quello che ho appena detto, cioè se un produttore cinese o indiano decidesse di fare lavorazioni, design e altre fasi in Cina o in India, poi viene qua, assembla oppure fa la concia, le parti magari meno importanti, può iniziare a esportare in Europa con la dicitura Made in Italy dopo questa legge. Questo è inevitabilmente quello che si legge in questa legge qua. Bellissimo. Allora, no, bellissima, perché così diamo la possibilità a tutti i produttori di Cina, India, Vietnam di venire in Italia, fare due fasi, le altre due se le tengono loro, vengono qui, fanno due fasi, poi possono esportare in tutta Europa con il marchio Made in Italy. Io la trovo una legge fantastica, poi vedo che molti invece la difendono. Presidente Caligaris, cosa obietta invece a chi dice, attenzione però, va bene, difendiamo anche la parte più nobile del Made in Italy, cioè il design, il confezionamento... Le parti più delicate, più a maggior valore aggiunto nella produzione. Però poi voi andate a comprare beni o parte, insomma, diciamo, delle beni pagandoli poco, cioè in paesi in cui la manodopera costa poco, Cina, appunto, Vietnam, anche Croazia, così, e però i prezzi sono sempre quelli italiani, cioè non si vede nessun vantaggio per il consumatore. Ma io credo che questo non sia vero, perché dobbiamo capire che oggi le aziende italiane per esportare devono far fronte a un aspetto che è la moneta euro. Dobbiamo ricordarci che l'euro praticamente ha preso veramente una rivalutazione rispetto alle altre monete del mondo mediamente del 30%. Quindi praticamente noi praticamente dobbiamo far fronte a questo aspetto quando dobbiamo ovviamente competere anche con gli altri competitori del mondo. Dobbiamo vedere gli Stati Uniti, avevamo veramente 6 anni fa che per comprare un euro bastavano 85 centesimi di dollaro, adesso ne vogliono 50 e fortunatamente in questi giorni 1,35. Ma quindi io non credo che questo sia, diciamo, l'aspetto sul quale noi dobbiamo parlare. Io credo che le aziende italiane per vendere nel mondo devono essere comunque competitive. La loro competizione si basa appunto avendo anche dei componenti fatti in altri paesi, ma non solamente per il prezzo, ma anche per certe volte per la qualità, perché non è detto che tutti i componenti devono essere fatti in Italia, perché ci sono altri paesi che possono produrre anche dei componenti di miglior qualità. La vostra, però, mi dica una battuta, Presidente Caligaris, perché dobbiamo andare alla borsa, che cosa proporreste voi? Cioè, siccome l'etichetta Made in Italy serve a chi non ha già un nome famoso, non serve ai grandi della moda, ai grandi nomi, forse serve poco anche a lei, visto che lei è un nome famoso, ma serve veramente a chi non è così conosciuto, e grazie a Made in Italy ha un vantaggio in più come marketing, come valore aggiunto. Ma io dico che serve appunto o certificare appunto le aziende appunto che hanno un nome, che hanno quant'altro, oppure praticamente aziende più piccole che devono lavorare praticamente sotto il cappello praticamente di un consorzio, di qualcuno che questo probabilmente certifica appunto a loro volta tutte queste aziende. Ma allora la sua proposta qual è? Avere un consorzio su questo? Anche avere un consorzio, perché delle aziende più piccole possono avere veramente dei consorzi, questi consorzi ovviamente possono essere certificati e a loro volta quindi far produrre tutte le aziende ovviamente con un aspetto qualitativo che corrisponda appunto a delle aziende che producono con delle regole del Made in Italy. Allora, una risposta do al 349-238-6666, è già successo, ci sono già dei produttori di, ne abbiamo sentito uno, di divani che esportava in Arabia Saudita, ha dovuto scrivere adesso parzialmente fatto in Italia e non più Made in Italy, e il compratore saudita gli ha detto: ma come mai? È perché la gomma piuma e altre parti non veniva da lì, l'assemblaggio della cosa di quella parte lì non era fatta in Italia. Avvocato Cartella, anche lei in meno di un minuto mi dice che cosa potrebbe fare. Ho quest'idea, si può fare qualcosa all'interno, e quindi creando degli organismi o organismi già esistenti, potrebbero essere le camere di commercio o altro, associazioni professionali, di regolamentare quali caratteristiche i prodotti debbono avere per essere made in Italy, che non sono soltanto caratteristiche che attengono alla fabbricazione o alla realizzazione di certe fasi di fabbricazione in Italia, ma anche di qualità e anche di attività ideativa. Questo sul piano interno, e così avremo un made in Italy che risponde a quella che è l'immagine esterna, cioè che all'estero ha il Made in Italy. E dall'altro lato occorrerebbe probabilmente un sistema paese che sia efficiente, che il Made in Italy venisse poi protetto all'estero, in modo da evitare ad esempio che nel Wisconsin ci sia qualcuno che fabbrica un formaggio che si chiama parmesan e lo dichiarano come il miglior formaggio degli Stati Uniti. Ma infatti il vero problema è che questa legge non tutela poi chi fabbrica il parmesan, ci mette la bandiera italiana e lo fa in California. Comunque devo veramente chiudere perché ho fatto slittare i mercati, quindi adesso borsa e poi in collegamento con l'Ocse le previsioni macroeconomiche, così chi vuole invece occuparsi di finanza e economia adesso verrà accontentato. Grazie in bocca al lupo all'ingegnere Alessandro Caligari, presidente della Confindustria Friuli Venezia Giulia, all'avvocato Massimo Cartella, ordinario di diritto commerciale alla Bicocca di Milano. Allora, non ci stiamo dentro con tutti i messaggi che sono arrivati, la borsa la facciamo dopo il GR. Vi do intanto chi si fosse messo in collegamento gli aggiornamenti dall'America: Dow Jones più 0,1, Francoforte più 0,80, Parigi più 0,80%, Londra più 0,70, Milano più 1,3, i migliori appunto Pirelli più 4, Bulgari più 3,70, Buzzi più 3,40, Fiat più 3% come l'automatica, il peggiore Atlantia meno 1,40, Mondadori meno 1%. Dopo il GR la borsa e le prospettive macroeconomiche dell'Ocse. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi delle prospettive economiche diffuse oggi dall'Ocse, nel giorno in cui abbiamo scoperto che il 2009 si è chiuso anche peggio di quanto non si fosse precedentemente stimato. Non possiamo tornare sul tema della legge Made in Italy, che oggi è stata approvata al Senato, tornerà alla Camera in terza lettura. Però attenzione, vedo che molti di voi insomma non sono d'accordo con quanto noi sostenevamo, che non ci fosse bisogno di una legge che andasse a limitare il marchio Made in Italy nel momento in cui le esportazioni hanno fatto il peggior anno l'anno scorso dal 1970, una legge che ha dei paradossi, per cui se uno viene dall'estero, dalla Cina, dall'India a fare qua due lavorazioni può mettere il marchio Made in Italy, che il Made in Italy vada tutelato sulle parti di maggior valore aggiunto, quindi il design, il confezionamento, la finitura, non sulle grosse parti insomma delle materie prime e i lavori diciamo a minor costo di mano d'opera. Molti di voi non sono d'accordo, noi restiamo della nostra idea, comunque è bello anche così, perché insomma, evidentemente il tema crea dibattito. La borsa con un leggerissimo ritardo oggi, ogni tanto capita, giornata più 1,3% su Milano, più 0,80 Parigi, Francoforte, più 0,70 Londra. Miglior titolo Pirelli, proprio da Pirelli partiamo con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, perché il Pirelli ha guadagnato il 4,15%, bene anche Bulgari più 3,70 e Buzzi Unicem, va detto, con un 3,40%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Pirelli, e poi andiamo giù anche sugli altri titoli. Allora, Pirelli è stata sostenuta dalla pubblicazione dei conti 2009, sì, e poi c'è stato anche un giudizio positivo da parte degli analisti di Banca Akros che hanno confermato il giudizio buy. Allora, in particolare il mercato ha apprezzato il ritorno al dividendo, infatti la società ha comunicato il ritorno alla cedola e ha mostrato un utile netto di competenza del 2009 positivo, quindi per 22,7 milioni e una perdita netta totale di 22,6 milioni. Inoltre è stato apprezzato in particolare l'indebitamento, che è stato quasi dimezzato e si è attestato a 529 milioni di euro. Per quanto riguarda i ricavi del gruppo e i ricavi della parte pneumatici, i conti presentati hanno battuto le stime, le previsioni degli analisti. Allora, una notizia di borsa oggi riguarda Edison, ma riguarda le obbligazioni Edison, perché quello ha richieste 8 volte superiori all'offerta. L'obbligazione da 500 milioni di Edison ha richieste già per 4 miliardi di euro, quindi siamo 8 volte l'offerta, e va ad aggiungersi a quello quinquennale da 700 milioni lanciato nel luglio scorso, che ebbe una domanda 10 volte superiore all'offerta. Questa è una notizia di mercato. L'altra notizia di mercato riguarda la Fiat, adesso ne parliamo, più 3%. Non ci stiamo dentro con l'approfondimento sui difetti. Oggi multata per 1.200.000 euro in Brasile la Fiat, chiesto il richiamo di 60.000 stilo per un difetto, adesso vi dico anche tecnicamente cos'è, perché riguarda la ruota posteriore. La faremo domani, perché ci incuriosisce questo continuo richiamare auto Toyota, Nissan, Volkswagen, adesso anche Fiat, per difetti nel produzione. Fiat, il difetto l'ho trovato, il difetto è i mozzi delle ruote posteriori. Fiat, più 3%. Sì, allora Fiat quindi ha guadagnato il 2,96%, non ha risentito quindi della notizia che hai appena citato tu, anche per il fatto che il comparto auto europeo ha chiuso in rialzo l'1,45%, e comunque vi è stato anche un giudizio buy, quindi comprare, da parte della banca d'affari Deutsche Bank, che deve aver sostenuto il titolo nella giornata di oggi. L'automatica più 3%, un po' che non ne parliamo del titolo. Sì, allora l'automatica ha beneficiato della decisione del Consiglio di Stato di accogliere i ricorsi sull'aggiudicazione del Gratta e Vinci. Infatti il Tribunale Amministrativo il 20 novembre aveva invece accolto il ricorso con cui Sisal contestava appunto il bando, in quanto le clausole non avrebbero reso possibile la partecipazione alla gara di soggetti diversi in sostanza dall'automatica stessa. In realtà il Consiglio di Stato ha poi accolto il ricorso della società. Ancora, Saipem si aggiudica nuovi contratti onshore, circa 800 milioni di dollari, ecco perché il 2,90%, Olivia? Sì, allora il titolo ha beneficiato sia dell'aggiudicazione appunto dei nuovi contratti offshore e anche dell'incremento, dell'ascesa dei prezzi del petrolio dopo la pubblicazione degli stocks americani. Allora, qui c'è una notizia quasi tecnica. Mondadori oggi va male, meno 1%, ma per un motivo di indice. Sì, infatti Mondadori ha registrato una delle peggiori performance sul listino principale, ha perso l'1%. Il motivo è che praticamente il 22 marzo Mondadori uscirà dal paniere principale e lascerà il posto ad Azimut. Secondo gli operatori, l'uscita dal paniere principale del listino milanese provocherà una perdita di visibilità al titolo, ed è per questo che le azioni oggi sono scese. Sì, di solito chi esce dal listino, diciamo, principale, quello dei titoli di maggiore capitalizzazione, è meno presente nei portafogli degli investitori istituzionali, dei fondi di pensione, per cui insomma si ritiene che ne abbia un po' di danno di visibilità, mettiamola così, ma nulla a che vedere con i fondamentali di bilancio del titolo. Ancora, per quello che riguarda Atlantia, insomma siamo alla terza seduta di calo, qui pesano ancora i conti, Livia? Sì, allora meno 1,40, peggior titolo dell'S&P MIB. Sì, in tre sedute le azioni hanno ceduto circa il 4,4%, nonostante delle giudizi comunque positivi che sono arrivati dalle banche d'affari. Allora, la società venerdì scorso ha comunicato al mercato i conti 2009 che hanno mostrato un utile netto in calo del 6%. In realtà gli operatori hanno sottolineato che da due giorni sul titolo ci sono dei flussi in vendita, ma in realtà le spiegazioni non sono così chiare, perché comunque la società ha comunicato anche un dividendo in aumento del 5,1%. Di solito queste notizie sono apprezzate dal mercato. Ancora tra i titoli, tra i più sottili, Montefibre più 20%, 20,5%, SNIA più 17%. Che è successo? Allora, per quanto e Safilo più 14%. Se riesci a farmi tutti e tre, sei un mito. Allora, Montefibre, sì, lo so. Allora, è stato il via libera dei creditori alla ristrutturazione dei debiti e quindi il titolo ha beneficiato di questa notizia. Per quanto riguarda Safilo, vi è stata una revisione al rialzo del rating da parte di Moody's, mentre in realtà SNIA non dovrebbero esserci notizie che hanno che giustificano il rialzo del titolo oggi. Per cui, insomma, sei un mito, ma te la sei cavata senza notizia, ma a parte gli scherzi, cioè non abbiamo visto nulla anche noi su SNIA. Arena molto bene anch'essa, ma è un po' di giorni che ne sale, più 12,80% di Pirelli, abbiamo già detto. Seat, pagina gialla sul risparmio, perde 4,20%, Stefanel perde il 3,80%. Grazie, Livia Zancanella, Radio Cori, sulle 24 ore, il traffico e poi... Invece le previsioni diffuse dall'OCSE e le revisioni purtroppo non belle su come si è chiuso il 2009 per l'Italia, il calo è anche superiore a quello già pesante stimato due mesi fa. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:19 minuti, di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, posto che dei difetti di questi grandi produttori di auto, ultima che si è aggiunta alla lista Fiat, parleremo domani, perché il tema merita anche un ragionamento, che cosa sta succedendo con i fornitori, con i subfornitori. Adesso le indicazioni arrivate da un lato dall'Istat e soprattutto dall'OCSE, che oggi è tenuto in conferenza stampa, ha illustrato i vari dati sull'obiettivo crescita, il rapporto si chiamava così, in realtà crescita, abbiamo scoperto, ho avuto conferma, essere molto debole. Eh sì, perché se da un lato l'Istat ha diffuso oggi, la revisione sul PIL complessivo nel 2009, ha fatto un meno 5,1%, non meno 4,9%, l'economia italiana, il peggior dato dal 1971, da quando esiste la serie storica, non lo sappiamo prima, insomma, forse anche da prima, forse dal dopoguerra. E non voglio far polemica politica con chi diceva che la crisi era un'idea dei giornalisti, e insomma non c'era la crisi... nei consumi l'avevamo creata noi creando allarmismi. Meno 5,1% mette la parola fine a questa polemica abbastanza inutile, perché non ci occupiamo di numeri. E anche il quarto trimestre dell'anno l'Istat segnala un meno 0,3% trimestre su trimestre, meno 3% rispetto all'anno prima. E questo non è bello, perché negli ultimi tre mesi del 2009 noi siamo calati più della media europea, perché abbiamo fatto meno 0,3 su base congiunturale, mentre il Regno Unito è rimasto fermo, anche la Germania è rimasta ferma, insomma i paesi nostri concorrenti sono andati un po' meglio nell'ultimo trimestre dell'anno. E il meno 0,3% che ci siamo beccati nell'ultimo trimestre e l'andamento anche di gennaio fa sì che già il PIL acquisito, come si chiama, quello che abbiamo fatto fino adesso, è un meno 0,1% sul 2010. Ecco perché il Centro Studi Confindustria dice difficile con questi numeri che l'Italia vada oltre l'1%, probabilmente starà forse sotto quanto a crescita economica quest'anno. Buono invece il dato sulla produzione industriale, più 2,6% a gennaio sul mese prima, è il primo dato tendenziale positivo, perché è positivo anche anno su anno, però... positivo, dicevo, dall'aprile del 2008. E poi di tutto lo scenario dei paesi OCSE si è occupato appunto oggi l'OCSE. Siamo in collegamento con Parigi, dove c'è il capo economista dell'OCSE, professor Piercarlo Padoan. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, i titoli con cui sono usciti: ripresa debole e instabile, servono riforme. Italia tra i più colpiti dalla crisi, meno 4 punti percentuali di PIL. Ci chiarisca i due aspetti: riforme, la ripresa debole l'abbiamo capito anche noi, le riforme quali e perché tutti le invocano? Ma innanzitutto vorrei chiarire che oggi l'OCSE non è uscito con nuove previsioni. No, è vero, era solo un rapporto, è vero. Ma è uscito con il suo rapporto annuale che riguarda l'impatto delle politiche di riforma strutturale sulla crescita pro capite, sul reddito pro capite. Il messaggio principale è relativamente semplice a dirsi, e cioè le sfide che tutti i paesi OCSE senza distinzione devono affrontare nei prossimi mesi e anni è duplice. Da una parte devono recuperare le perdite che la recessione ha provocato sul cosiddetto prodotto potenziale, cioè la crescita, diciamo, di lungo periodo, e questo per una serie di ragioni: la maggiore disoccupazione, il minore investimento, la maggiore attività di innovazione. Quindi c'è un problema di recuperare crescita, recuperare il PIL. Allo stesso tempo l'altro problema è che bisogna mettere in pratica il riaggiustamento dei bilanci pubblici. In molti paesi il debito è cresciuto a ritmi impressionanti, non è sostenibile questo andamento, quindi i governi devono mettere mano, come dire, al portafoglio in senso contrario, cioè devono tagliare la spesa e eventualmente aumentare l'imposizione per rendere il debito sostenibile. Come si fa a conciliare queste due cose? Perché è chiaro che se si taglia il bilancio ci possono essere effetti negativi sulla crescita. Quello che l'OCSE raccomanda sono due cose. Primo, nel scegliere cosa tagliare, eventualmente dove aumentare le imposte, bisogna essere molto più selettivi che in passato, bisogna chiedersi dove sono le voci di spesa e le eventuali tasse che sostengono la crescita invece di danneggiarla. Qui ci sono varie opzioni che si possono considerare. La seconda cosa è che la crescita nel medio periodo è rafforzata da riforme dei mercati che vadano verso, per esempio, una maggiore competizione, una maggiore apertura alla concorrenza sui mercati dei prodotti, e per quanto riguarda i mercati del lavoro bisogna passare da misure di sostegno dell'occupazione di breve termine, che sono state utili per fronteggiare la crisi, a misure che permettano una riallocazione del lavoro verso i settori più dinamici e le imprese più dinamiche. Questo in sintesi è il messaggio generale. E in questo l'invito all'Italia da parte vostra è ridurre le tasse sul lavoro, il famoso cuneo fiscale, e aumentare le pensioni. Cioè il trade-off, lo scambio sarebbe questo: lavorare un po' di più ma pagare meno tasse sul lavoro? Cioè Metterla così, va bene. Faccio notare che queste raccomandazioni dell'OCSE non sono una novità. No, certo. Anche prima della crisi l'OCSE raccomandava ad un paese come l'Italia di muoversi in questa direzione. D'altra parte l'Italia è un paese nel quale ci sono due grossi vincoli, come dire, semipermanenti, cioè una crescita potenziale più bassa che altrove e un debito più alto che altrove, quindi le possibilità di muoversi sono limitate. Le possibilità di muoversi però aumentano se uno prende, come si dice, un orizzonte temporale di più lungo periodo, e quindi mette in campo riforme che daranno i frutti non immediatamente ma nel medio termine. Ancora sull'invito che voi fate, c'è una classifica in cui noi siamo al 20° posto sui 30 paesi che compongono l'OCSE per quanto riguarda la produttività pro capite. Questo non è bellissimo, ma soprattutto perché dite che l'Italia è tra i paesi dell'OCSE uno di quelli che maggiormente subiranno gli effetti della crisi, per quello che noi abbiamo visto, insomma. Il calo è forte, è fortissimo, lo dicevo, mai così male nel 1970, meno 5,1%, però non è che la Germania abbia fatto molto meglio, anzi, o la Gran Bretagna, mi dica. Ripeto, questo rapporto non valuta l'impatto della crisi sulla crescita dei paesi. Questo rapporto mette in evidenza le carenze strutturali che ci sono un po' dappertutto e che in Italia sono, tra quelle che lei ha appena citato prima, che sono alla base dell'altro fatto evidente purtroppo, e cioè che il tasso di crescita potenziale dell'Italia era basso prima della crisi, continuerà a essere basso se non si prendono misure di politica adeguate. Se la crisi ha paradossalmente si è fatta sentire relativamente meno in Italia che in altri paesi, in termini sempre relativi, però i problemi strutturali restano, e quindi uscire dalla crisi a bassa velocità non è piacevole. Ci sono paesi che stanno uscendo dalla crisi a velocità più sostenuta. E quindi c'è un'indicazione anche su quella che ormai tutti chiamano l'exit strategy, cioè soprattutto cosa fare dopo aver tenuto botta in maniera tattica, diciamo, nel giorno per giorno, nel mese per mese, adesso avere anche una visione più strategica. Da lì richiamo la necessità di una politica industriale e cioè darsi delle pianificazioni un po' più di ampio respiro proprio per uscire dalla crisi, non semplicemente arrancando così in maniera pezzottata. Grazie al capo economista dell'OCSE in collegamento con noi da Parigi, Piercarlo Padoan. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto vi auguro buona serata. Radio 24, la passione si sente.